E Margaret cominciò a raccontare. È una lunga storia. Ma quando Fred è arrivato, la mamma era molto malata. Io ero distrutta dall'ansia e temevo inoltre di averlo attirato nel pericolo. E subito dopo la morte della mamma c'è stato un segnale d'allarme, poiché Dixon aveva incontrato un tipo a Milton di nome Leonards, conoscente di Fred, che sembrava portargli rancore o ad ogni modo essere tentato dal ricordo di una ricompensa offerta per la sua cattura. Per il nuovo spavento ho pensato che fosse meglio mandare in tutta fretta Fred a Londra, dove, come avrete capito, da quello che abbiamo detto l'altra sera, doveva recarsi a consultare il signor Lennox sulle possibilità che avrebbe avuto nel caso di un processo. Così noi, cioè lui ed io, siamo andati in stazione. Era sera e si stava già facendo buio, ma c'era ancora abbastanza luce per riconoscere ed essere riconosciuti. E siamo arrivati troppo presto, quindi siamo andati a camminare in un campo lì vicino. Io ero costantemente terrorizzata al pensiero di questo Leonards che poteva essere, come sentivo, da qualche parte lì nei paraggi. E poi, mentre eravamo nel campo, con il sole al tramonto che mi batteva proprio sul viso, qualcuno è giunto a cavallo sulla strada, proprio sotto i gradini vicino ai quali stavamo noi. Ho notato che mi ha guardato, ma all'inizio non ho capito chi fosse. Avevo tutto quel sole negli occhi, ma improvvisamente il bagliore è scomparso e ho riconosciuto il signor Thornton e ci siamo salutati. E lui ha visto Frederick, naturalmente, disse il signor Bell, aiutandola nel suo racconto in base a ciò che immaginava. Sì, e poi in stazione è arrivato un uomo, alticcio e barcollante, ha cercato di afferrare Frederick, perdendo l'equilibrio mentre Fred con uno strattone si divincolava ed è caduto giù oltre la banchina, finendo non troppo lontano, né troppo in basso. Non sarà stato più di un metro, ma oh, signor Bell, in qualche modo quella caduta lo ha ucciso. Che strano. Era questo Leonards, suppongo. E come ha fatto Fred ad andarsene? È partito subito dopo e non abbiamo mai pensato che la caduta potesse aver fatto tanto male a quel poveraccio. Sembrava un colpo così leggero. Quindi non è morto sul colpo. No, appena 2 o 3 giorni dopo e poi. Oh, signor Bell, adesso arriva il peggio, disse giocherellando nervosamente con le dita. È venuto un poliziotto ad accusarmi di essere stata vista in compagnia del giovane che con un colpo o una spinta aveva causato la morte di Leonards. Era un'accusa falsa, capite? Ma non avevamo ancora saputo se Fred fosse salpato. Avrebbe potuto essere ancora a Londra ed era passibile di arresto per questa falsa imputazione. E se la sua identità di sottotenente Hale, accusato di aver provocato quell'ammutinamento, fosse stata scoperta. Oh, sarebbe stato probabilmente giustiziato. Mi è balenato tutto questo nella mente e così ho detto che non ero io, che non ero alla stazione quella sera, che non ne sapevo nulla. La mia unica volontà, il mio unico pensiero erano rivolti a salvare Frederick. A parer mio è stato giusto, bambina. Io avrei fatto lo stesso. Hai dimenticato te stessa per pensare a qualcun altro. Immagino. Sì, io avrei fatto lo stesso. No. Non l'avreste fatto. È stato un errore, una trasgressione, una mancanza di fede. In quel preciso momento Fred era al sicuro fuori dall'Inghilterra e nella mia cecità ho dimenticato che c'era un altro testimone che avrebbe potuto confermare che ero lì. E chi? Il signor Thornton. Sapete che mi aveva vista vicino alla stazione. Ci siamo salutati. E allora? Non avrebbe saputo niente di questa rissa sulla morte del tipo ubriaco. Suppongo che l'inchiesta non sia mai arrivata a nulla. No, i procedimenti di cui avevano iniziato a parlare riguardo l'inchiesta sono stati fermati. Il signor Thornton sapeva tutto della faccenda. E lui è un magistrato e aveva scoperto che non era stata la caduta a causare la morte, ma non prima di aver saputo cosa avevo dichiarato io. Oh, signor Bell. Si coprì improvvisamente il viso con le mani come se volesse nascondersi dalla presenza del ricordo. Hai mai avuto modo di spiegarti con lui? Gli hai mai detto la tua fondata e istintiva motivazione? L'istintiva mancanza di fede e l'essermi aggrappata a un peccato per impedirmi di affrontare, disse con amarezza. No. Come potevo? Non sapevo nulla di Frederick. Per salvaguardare la sua buona opinione di me, dovevo raccontargli i segreti della nostra famiglia, complicando, come sembrava sarebbe accaduto, le possibilità del povero Frederick di essere completamente scagionato. Con le sue ultime parole, Fred mi aveva ordinato di non dire a nessuno della sua visita. Vedete, papà non l'ha riferito neanche a voi. No, potevo sopportare la vergogna, almeno così pensavo. L'ho sopportata. Da quella volta il signor Thornton non ha più avuto stima di me. Ti stima, ne sono sicuro, disse il signor Bell. Certamente un po' incide su, ma parla sempre di te con riguardo e stima, anche se ora capisco certe sue riserve nel modo in cui lo fa. Margaret non disse nulla. Non prestò attenzione a quello che il signor Bell continuò a dire, perse tutto il senso. Dopo un po' disse: Potete dirmi a che cosa vi riferite con riserve nel suo modo di parlare di me? Oh, mi ha semplicemente infastidito per non essersi unito a me nel tessere le tue lodi. Come un vecchio idiota ho pensato che tutti avrebbero avuto la stessa opinione che avevo io e lui evidentemente non poteva essere d'accordo con me. Ero perplesso all'epoca, ma era lui a dover essere perplesso se la faccenda non era stata spiegata per niente. Prima c'era il fatto che eri fuori a passeggio con un giovane uomo di notte. Ma era mio fratello, disse Margaret sorpresa. Certo, ma lui come faceva a saperlo? Non lo so, non ho mai pensato a una cosa del genere, disse Margaret arrossendo e sembrando ferita e offesa. E forse non lo avrebbe pensato mai se non fosse stato per quella bugia che ritengo, date le circostanze, sia stata necessaria. Non è vero, adesso lo so, me ne pento amaramente. Ci fu una lunga pausa di silenzio. Margaret fu la prima a parlare. Probabilmente non rivedrò mai più il signor Thornton. E lì si fermò. Ci sono tante cose molto più improbabili, direi, rispose il signor Bell. Ma io credo che non lo vedrò più. Eppure, in qualche modo, non è piacevole essere sprofondati così in basso nella stima di un amico come ho fatto io nella sua. Aveva gli occhi pieni di lacrime, ma la sua voce era ferma e il signor Bell non la stava guardando. E adesso che Frederick ha perso ogni speranza e quasi tutto il desiderio di essere discolpato e di ritornare in Inghilterra, chiarire tutto questo significherebbe soltanto rendere giustizia a me stessa, se volete e se potete, se ci sarà una buona occasione, non imponetegli una spiegazione, vi prego, ma se potrete gli racconterete tutti i fatti e gli direte anche che sono stata io a darvi il permesso perché ho sentito che per amore di mio padre non avrei voluto perdere la sua stima, anche se probabilmente non ci incontreremo più. Ma certamente. Penso che debba sapere, non voglio neanche che tu riposi all'ombra del disonore. Non avrà saputo cosa pensare vedendoti da sola con un giovane uomo. Quanto a questo, disse Margaret in modo piuttosto altezzoso, reputo che sia honi soit qui mal y pense. Si vergogni chi pensa male. Eppure vorrei ancora che fosse spiegato se la possibilità di una semplice spiegazione capitasse spontaneamente. Ma non è per discolparmi da un qualche sospetto di comportamento indecoroso che desidero che sappia. Se pensassi che ha dubitato di me, non mi importerebbe della sua buona opinione, no. È solo perché possa capire come sono stata tentata e come sono caduta in trappola per farla a breve il perché abbia mentito. Non ti biasimo, non è favoritismo il mio, te lo assicuro. Ciò che possono pensare le altre persone riguardo quello che è giusto o sbagliato non è nulla in confronto alla mia profonda consapevolezza, alla mia radicata convinzione che sia stato un errore. Ma non parliamone più, se non vi dispiace. È fatto, il mio peccato è commesso. Adesso devo solo lasciarmelo alle spalle ed essere onesta per sempre, se riesco. Molto bene, se ti piace essere preoccupata ed esagerare, va bene. Io la mia coscienza la tengo sempre chiusa, ben stretta, come una scatola sorpresa, perché quando salta fuori e prende vita, mi sorprende per la sua grandezza. Così, con le lusinghe, la convinco a rimettersi giù, come il pescatore ha convinto il genio. È meraviglioso, dico io, pensare che siete stato nascosto per tanto tempo in una bottiglia così piccola che nemmeno sapevo della vostra esistenza. Vi prego, signore, invece di diventare ogni istante più grande e di confondermi con i vostri nebulosi contorni, vi comprimereste ancora una volta nelle vostre dimensioni di prima? E dopo averlo ricacciato dentro, non metto forse il sigillo al vaso e non presto attenzione a come lo riapro e a come sto andando contro Salomone, il più saggio degli uomini, che lì lo confinò? Ma per Margaret non era una questione su cui scherzare. Non prestò alcuna attenzione a quello che il signor Bell stava dicendo. I suoi pensieri inseguivano l'idea che già le era venuta in mente in passato, ma che ora aveva assunto la forza della convinzione, che il signor Thornton aveva perso la buona opinione che di lei aveva in precedenza e che lo aveva deluso. Non credeva che una qualche spiegazione potesse mai farle riguadagnare la posizione perduta. Non nel suo amore, perché a questo e alla possibilità di contraccambiarlo aveva deciso di non rivolgere più un pensiero e si manteneva ferma nella sua intenzione, ma nel rispetto e nella stima che lei aveva sperato lo avrebbero sempre reso incline, nello spirito dei magnifici versi di Griffin, a volgere il capo e guardare indietro quando sentirai risuonare il mio nome. Continuava a rimanere senza fiato e a deglutire tutte le volte che ci pensava. Cercava di consolarsi con l'idea che, in qualunque modo lui si immaginava che lei fosse, non alterava la realtà di come lei era. Ma era un'ovvia verità, un'illusione, e crollava sotto il peso del suo rimpianto. Aveva sulla punta della lingua una ventina di domande da porre al signor Bell, ma non ne pronunciò nemmeno una. Il signor Bell pensò che fosse stanca. E la mandò presto nella sua stanza, dove per lunghe ore rimase, seduta vicino alla finestra aperta, fissando la volta viola sopra di lei, dove le stelle nacquero, brillarono e scomparvero dietro i giganteschi e ombrosi alberi prima che lei andasse a dormire. E anche per tutta la notte ci fu una luce che brillava sulla terra, una candela nella sua vecchia camera da letto, che per gli attuali abitanti della canonica era la cameretta dei bambini, fino a quando quella nuova non fosse stata pronta. Un senso di cambiamento, di personale nullità, di sconcerto e delusione si impadronì di Margaret. Nulla era stato lo stesso. E questa leggera instabilità che permeava tutto le aveva causato un dolore più grande di quello che avrebbe provato se tutto fosse cambiato a tal punto da non riuscire a riconoscerlo. Iniziò ora a capire come deve essere il paradiso e, oh, la maestosità e la pacatezza delle parole è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Sempre. Da sempre e per sempre tu sei. Quel cielo sopra di me pare come se non potesse cambiare, eppure lo farà. Io sono così stanca di essere costretta a girare vorticosamente di continuo attraverso tutte queste fasi della mia vita in cui nulla è duraturo, per me, né persone né luoghi. È come il cerchio nel quale le vittime delle passioni terrene turbinano incessantemente. Sono nello stato d'animo in cui le donne di un'altra religione prenderebbero i voti. Cerco la determinatezza celeste nella monotonia della terra. Se fossi una cattolica romana e riuscissi a rendere insensibile il mio cuore, a stordirlo con un potente colpo, potrei farmi suora, ma mi struggerei per il genere umano. No, non per il mio genere, giacché l'amore per l'umanità non potrebbe mai riempire il mio cuore a tal punto da escludere completamente il mio amore per le persone. Forse dovrà essere così, forse no. Non posso decidere stanotte. Stremata, andò a dormire. Estremata si svegliò dopo 4 o 5 ore, ma con il mattino venne anche la speranza e una visione più luminosa delle cose. Dopotutto è giusto, disse sentendo le voci dei bambini che giocavano mentre si vestiva. Se il mondo si fermasse, regredirebbe e diventerebbe corrotto, o addirittura irlandese. Guardando al di là di me stessa e della mia dolorosa percezione del cambiamento che mi riguarda, il progresso tutto intorno a me è giusto e necessario. Non devo pensare troppo all'effetto che le circostanze hanno su di me personalmente, ma anche a quello che hanno sugli altri. Se voglio tenere un giusto giudizio, avere un cuore pieno di fiducia e speranza, e con negli occhi un sorriso pronto ad arrivare e fremere sulle labbra, entrò nel salotto e salutò il signor Bell. Ah, signorinella, sei rimasta sveglia fino a tardi ieri sera e quindi sei in ritardo stamattina, eh? Ora ho una piccola notizia per te. Cosa ne pensi di un invito a cena? Una visita della mattina, letteralmente, della mattina ancora bagnata dalla rugiada. Dunque, ho già visto il reverendo, passava di qua per andare a scuola. Quanto avesse a che fare con la sua tempestività il desiderio di dare alla nostra padrona della locanda una lezione sull'astinenza totale dall'alcol per il beneficio degli uomini che facevano il fieno, non lo so. Tuttavia era qui quando sono sceso poco prima delle 9 e ci ha invitati per oggi. Ma Edith mi aspetta, non posso andare, disse Margaret, grata per avere una così buona scusa. Sì, lo so, gliel'ho detto, ho pensato che non volessi andare, tuttavia, puoi ancora farlo se vuoi. Oh no, disse Margaret, atteniamoci al nostro programma, partiamo alle 12. È molto carino e gentile da parte loro, ma davvero non posso accettare. Molto bene, tu non preoccuparti e penserò a tutto io. Prima di partire, Margaret si intrufolò nel retro del giardino della canonica e raccolse un piccolo fiore di caprifoglio che si era staccato. Non avrebbe preso un fiore il giorno prima per paura che la osservassero e commentassero i suoi motivi e sentimenti, ma mentre ritornava per il prato, il luogo si riappropriò della vecchia atmosfera incantevole. I comuni suoni della vita laggiù erano più musicali che in qualsiasi posto al mondo, la luce più dorata, l'esistenza più tranquilla e colma di trasognato piacere. Ricordandosi dei pensieri del giorno prima, disse a se stessa: E anch'io sono in continuo cambiamento, ora questo, ora quello, ora contrariata e irascibile perché non tutto è esattamente come l'avevo disegnato, e ora scoprire che la realtà è molto più bella di come mi ero immaginata. Oh, Helston, non amerò mai nessun posto come amo te. Qualche giorno dopo ritrovò la sua calma e decise che era stata felice di esserci andata e di averlo visto. E che per lei sarebbe stato sempre il posto più bello al mondo, ma che era così pieno di ricordi del passato e soprattutto di suo padre e sua madre, che se fosse ricapitata l'occasione non avrebbe ripetuto la visita fatta in compagnia del signor Bell. 47. Qualcosa che non va. Più o meno in questo periodo Dixon fece ritorno da Milton assumendo il ruolo di cameriera personale di Margaret. Portò un'infinita quantità di pettegolezzi. Martha era andata a vivere con la signorina Thornton dopo il matrimonio di quest'ultima. Fece un resoconto di quell'interessante cerimonia riportando dettagli su damigelle d'onore, vestiti e colazione di nozze. La gente pensava che il signor Thornton avesse fatto un matrimonio troppo in grande, considerando che aveva perso molto denaro a causa dello sciopero e aveva dovuto pagare così tanto per i contratti andati a monte. La mobilia, tanto amata da Dixon, aveva fruttato pochi soldi all'asta, il che fu una vergogna, tenendo conto di quanto ricca fosse la gente di Milton. Un giorno era andata la signora Thornton concludendo due o tre buoni affari e il signor Thornton era tornato il giorno dopo e, desideroso di accaparrarsi un paio di cose, si era trovato a concorrere con se stesso con grande divertimento dei presenti o, come osservò Dixon, pareggiando i conti. Se la signora Thornton pagò troppo poco, il signor Thornton pagò troppo. Il signor Bell aveva mandato disposizioni di ogni sorta riguardo ai libri che nessuno aveva ben capito. Era così puntiglioso. Se fosse andato di persona sarebbe filato tutto liscio, ma le lettere erano sempre e sarebbero sempre state più disorientanti che utili. Dixon non aveva molto da raccontare sugli Higgins, la sua memoria aveva un filtro di natura aristocratica, così era in fida quando cercava di ricordare qualche evento collegato a quelli che erano di un rango sociale inferiore. Nicholas stava piuttosto bene, credeva, più volte era stato lì a casa a chiedere notizie della signorina Margaret. L'unica persona che chiedeva di lei, eccetto il signor Thornton. E Mary? Oh, certamente stava bene, una ragazzotta robusta e sciatta. Le dissero, o forse l'aveva solo sognato, anche se sarebbe stato strano se avesse sognato di gente come gli Higgins, che Mary era andata a lavorare nella fabbrica del signor Thornton perché suo padre voleva che imparasse a cucinare, ma quale assurdità poteva significare non lo sapeva. Margaret era piuttosto d'accordo sul fatto che quel racconto fosse abbastanza incoerente da essere simile a un sogno, eppure trovava piacevole avere ora qualcuno con cui parlare di Milton e della gente di Milton. Dixon non andava pazza per l'argomento, piuttosto desiderava lasciare quella parte della sua vita nell'ombra. Le piaceva molto di più soffermarsi sui discorsi del signor Bell che le avevano suggerito quale fosse davvero la sua intenzione. Di fare di Margaret la sua erede. Tuttavia la sua giovane signora non le dava alcun incoraggiamento, né soddisfaceva in nessun modo le insinuazioni delle sue domande, anche se mascherate sotto forma di sospetti e dichiarazioni. Per tutto questo tempo, Margaret ebbe una strana e indefinita brama di venire a sapere che il signor Bell era stato a Milton per una delle sue solite visite d'affari. Infatti, all'epoca della loro conversazione a Helston, era stato ben inteso tra loro che per suo desiderio la spiegazione doveva essere data al signor Thornton soltanto a parole e di persona. E anche così non doveva in nessun modo essergli imposta con la forza. Il signor Bell non era un grande corrispondente, ma di tanto in tanto scriveva lettere lunghe o corte a seconda dell'umore, e sebbene non ne fosse conscia, Margaret nutriva sempre qualche speranza nel riceverle e riponeva sempre via i suoi scritti con una leggera nota di disappunto. Non sarebbe andato a Milton. Ad ogni modo non diceva nulla al riguardo. Beh, doveva avere pazienza. Prima o poi le nebbie si sarebbero schiarite. Le lettere del signor Bell non rispecchiavano affatto il suo solito modo di essere. Erano brevi e piene di lamentele, con un piccolo tocco di insolita amarezza qua e là. Non aspettava con ansia il futuro. Pareva invece rimpiangere il passato, essere stanco del presente. Margaret si immaginò che potesse stare male, tuttavia, in risposta ad alcune domande sulla sua salute, le aveva spedito una breve nota dicendo che era un'antica malattia chiamata malinconia. Era di questo che soffriva e lasciava decidere a lei se fosse più mentale o fisica, ma che gli sarebbe piaciuto abbandonarsi alle lamentele senza essere obbligato a spedire un bollettino ogni volta. Dopo questa nota, Margaret non fece più domande sulla sua salute. Un giorno Edith si lasciò scappare accidentalmente un frammento di conversazione che aveva avuto con il signor Bell l'ultima volta che era stato a Londra, che ossessionò Margaret con l'idea che stesse pensando di portarla a trovare suo fratello e sua cognata a Cadice in autunno. Fece a Edith interrogazioni e controinterrogazioni fino a quando quest'ultima si stancò e disse che non c'era nient'altro da ricordare. Tutto quello che le aveva riferito riguardava una sua mezza idea di andare a sentire di persona ciò che Frederick aveva da dire sull'ammutinamento e che sarebbe stata una bella occasione per Margaret di conoscere la nuova cognata, che era sempre andato da qualche parte durante le vacanze estive e non vedeva perché non avrebbe dovuto andare in Spagna come da qualsiasi altra parte. Quello era tutto. Edith sperava che Margaret non volesse lasciarli e questo la preoccupava molto, e poi, non avendo nient'altro di particolare da fare, si mise a piangere e disse che sapeva di volere più bene a Margaret di quanto Margaret ne volesse a lei. Margaret la confortò meglio che poté, ma a stento riuscì a spiegarle come quest'idea della Spagna, di un semplice château en Espagne, come magari poteva essere, le piaceva e l'affascinava. Edith era dell'umore di pensare che ogni piacere goduto lontano da lei fosse un tacito affronto o, nel migliore dei casi, una dimostrazione di indifferenza. Così Margaret fu costretta a tenersi per sé la sua contentezza e poté solo lasciarselo scappare usando come valvola di sfogo Dixon, chiedendole, mentre si vestiva per la cena, quanto le sarebbe piaciuto vedere il padroncino Frederick e la sua giovane moglie. «Lei è una papista, signorina, vero?» «Credo». Oh sì, certo che sì, rispose Margaret per un attimo leggermente abbattuta, ricordandoselo. E vivono in un paese papista? Sì. Allora mi dispiace, devo dire che la mia anima mi è più cara persino del padroncino Frederick, per quanto sia una persona meravigliosa. Vivrei nel costante terrore, signorina, di essere convertita. Oh, disse Margaret. Non so se ci andrò e se dovessi andarci, non sono una signora così raffinata da non poter viaggiare senza di te. No, cara vecchia Dixon, devi farti una lunga vacanza se andremo, ma temo che sia un se che durerà a lungo. Ora a Dixon queste parole non erano piaciute. In primo luogo non le piaceva lo stratagemma di Margaret di chiamarla cara vecchia Dixon ogni volta che era particolarmente estroversa. Sapeva che la signorina Hale era propensa a chiamare tutte le persone che le piacevano vecchio, come una specie di parola di affetto. Tuttavia Dixon si allontanava sempre con una smorfia quando Margaret utilizzava quel termine per lei, che avendo da poco superato i 50 era, così pensava, nel fiore degli anni. In secondo luogo, non le piaceva essere presa così facilmente alla lettera. Nutriva, pur con tutto il suo terrore, una curiosità nascosta per la Spagna, l'Inquisizione e i misteri papeschi. Quindi, dopo essersi schiarita la gola, come per dimostrare la sua volontà di liberarsi delle difficoltà, chiese alla signorina Hale se pensava che, facendo attenzione a non incontrare un prete o a non entrare in una delle loro chiese, ci sarebbe stato proprio così tanto pericolo di essere convertita. Il padroncino Frederick di certo si era convertito inspiegabilmente. Beh, immagino che sia stato l'amore ad averlo inizialmente predisposto alla conversione, disse Margaret sospirando. Davvero, signorina, disse Dixon, Beh, riesco a salvaguardarmi dai preti e dalle chiese, ma l'amore ti coglie alla sprovvista. Penso sia meglio che io non venga.